Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Modelli di affettività e sessualità gay. Accade spesso che persone del tutto estranee alla realtà gay parlino di matrimonio gay o di coppia gay, estrapolando semplicemente al campo gay dei modelli di affettività e di sessualità che sono tipici del mondo etero. Accade che anche gli stessi gay siano spesso portati a conformare più o meno consapevolmente i loro comportamenti ad analoghi comportamenti etero. In realtà i modelli di affettività e di sessualità etero non sono esportabili al mondo gay perché, mentre nella realtà etero dominano categorie come la complementarità sessuale, il suo fine procreativo e la dimensione sociale del rapporto di coppia, nella realtà gay dominano categorie come la parità sessuale, l'orientamento non procreativo della sessualità e la privacy. Questa conversazione mira a puntualizzare l'originalità dei modelli di affettività e di sessualità gay rispetto ai corrispondenti modelli etero. Le diverse concezioni della vita affettiva possono essere classificate a seconda del ruolo che in esse assume la sessualità. Esistono modelli in cui la sessualità riproduttiva domina a tal punto da rendere secondaria anche la scelta dello o della partner. In altri casi la sessualità, considerata fondamentale anche al di là della finalità riproduttiva, resta comunque al centro della vita affettiva, il che significa che un rapporto interpersonale assume un significato importante solo quando sfocia in un rapporto sessuale, che la fedeltà si identifica esclusivamente con la fedeltà sessuale e che il rapporto va in crisi quando il rapporto sessuale non è più gratificante. Alcune affermazioni tipiche di certi modelli di sessualità etero, come lo scopo essenziale della sessualità è la nascita dei figli, oppure la masturbazione è inammissibile perché significa sprecare il seme, oppure il rapporto tra due persone dello stesso sesso non può essere un rapporto d'amore perché non può trasmettere la vita, o ancora la verginità è una virtù importantissima e simili, sono indici di modelli sessuocentrici. Analogamente connesso a un modello sessuocentrico è ritenere che un contatto sessuale etero non sia realmente gratificante quando manca la penetrazione e l'affermare che tutto ciò che viene prima è soltanto una preparazione. Sono sempre in una dimensione sessuocentrica le sottolineature della mascolinità e della femminilità come ruoli ben definiti anche a livello sociale. La dimensione sessuocentrica della vita affettiva può portare a dare particolare enfasi al rapporto sessuale e quindi può portare all'ansia da prestazione. Nel diffondere modelli sessuocentrici, un ruolo particolare compete alla pornografia, che identifica la sessualità con i rapporti sessuali e diffonde, per imitazione, modelli di comportamento non spontaneo che possono essere profondamente condizionanti. Mi capita spesso di parlare con ragazzi non più giovanissimi, cresciuti con un'educazione, o meglio sarebbe dire con una diseducazione sessuale affidata esclusivamente alla pornografia. Bene, il vero danno provocato a questi ragazzi dalla pornografia consiste nell'impedire o nel ritardare lo sviluppo della loro sessualità affettiva. I modelli sessuocentrici arrivano a diffondersi anche tra i gay proprio attraverso la pornografia. Molte caratteristiche dei modelli sessuocentrici etero sono assimilate acriticamente anche dai gay che non fanno che trascrivere quei modelli in chiave gay. Un antidoto potente contro i danni della pornografia è rappresentato dai modelli affettivi non sessuocentrici, derivati dagli esempi della vita familiare. I ragazzi gay cresciuti in famiglie in cui dominavano i modelli di sessualità diffusa, coccole, affettuosità, anche tra genitori e figli, sono in un certo senso vaccinati contro le visioni sessuocentriche della pornografia. La trascrizione meccanica in chiave gay dei modelli sessuocentrici etero induce i ragazzi a non fare troppa attenzione ai propri sentimenti, ma a considerare fondamentali solo le reazioni strettamente sessuali. Mi capita spesso di parlare con ragazzi che attribuiscono un'importanza fondamentale alla sessualità tecnica, intesa come il centro della vita affettiva. Tipiche in questo senso sono le situazioni dei ragazzi che si concentrano totalmente sulla propria risposta sessuale. In questi casi l'ipervalutazione della sessualità tecnica porta talvolta a reazioni nevrotiche, come il mettersi alla prova a livello sessuale, i cosiddetti esperimenti sessuali, cosa che può manifestarsi anche in modo ripetitivo e disturbante al limite del contenuto ossessivo. In queste situazioni sarebbe necessaria una vera rieducazione affettiva, o meglio, una rieducazione alla sessualità affettiva, cosa possibile però solo con un partner che non abbia anche lui una visione sessuocentrica dell'affettività. L'affettività può però manifestarsi anche in modo diffuso, con caratteristiche che non sono affatto sessuocentriche. Questo non vuol dire che non esista una sessualità nel senso stretto del termine, ma solo che questa sessualità è una componente del rapporto affettivo, ma non è l'essenza. La sostanziale differenza tra affettività sessuocentrica e sessualità diffusa consiste nel fatto che una sessualità diffusa permea di sé tutto il comportamento affettivo di una persona e non si limita ai momenti tipicamente sessuali. Ovviamente la sessualità diffusa non è né etero né gay, ma è piuttosto un modo di concepire la sessualità. Resta però che da quello che vedo ho l'impressione che per una coppia gay la sessualità diffusa, in assenza di condizionamenti da parte della pornografia, sia una dimensione spontanea, certamente non indotta dall'esterno e non imitativa. Il significato profondamente affettivo e appagante che può avere un abbraccio per un ragazzo gay non è legato al fatto che l'abbraccio può preludere a un rapporto sessuale, ma deriva dalla dimensione di calore e di intimità che quell'abbraccio assume in una dimensione di sessualità diffusa. Una conseguenza significativa della sessualità diffusa si trova nel confine tendenzialmente più labile tra amicizia e amore. Per un gay, pensare a una dimensione sessualizzata dell'amicizia non è necessariamente dirompente, proprio perché la sessualità spesso non è vista come l'essenza del rapporto di coppia. In questo senso l'infedeltà episodica diventa tollerabile perché è intesa come un modo sessualizzato di dimostrare il proprio affetto ad un amico più che come un tentativo di costruire una coppia alternativa. Vorrei dedicare la seconda parte di questa conversazione al concetto di coppia gay possibile. Con questa espressione intendo indicare che, per un gay, la possibilità di realizzare al 100% i suoi desideri in termini di vita di coppia rappresenta un'eventualità non comune e al limite anche rara. Un etero ha molte più possibilità di scelta e molta più libertà di azione. Per un gay, la realizzazione di una vita di coppia è legata all'eventualità a priori improbabile che il ragazzo del quale si innamora sia gay. Quando un ragazzo gay si innamora di un ragazzo etero, cioè ne è attratto in modo forte a livello globale, sia affettivo che sessuale, prima o poi deve prendere atto che i suoi desideri non si realizzeranno. A quello stesso ragazzo gay potranno presentarsi poi delle occasioni concrete di conoscere altri ragazzi gay e di poter creare con loro un rapporto di coppia possibile, insisto su questo aggettivo. Questa dimensione di coppia resta però spesso apparentemente indebolita dal fatto che ci sono altri ragazzi anche etero, e direi spesso etero, che risultano per il ragazzo gay decisamente più attraenti sul piano sessuale del compagno possibile. Su questa base si potrebbe pensare in modo automatico a una fragilità di coppia. In realtà non è così. Se la coppia possibile non soddisfa in pieno uno dei due partner sotto il profilo del desiderio sessuale, che può rimanere concentrato anche su altri ragazzi, partner impossibili però, resta comunque che si tratta di un rapporto possibile, ossia reale, contrapposto a desideri che sono irrealizzabili. Il rapporto di coppia, in questi termini, non può essere sessuocentrico e si modifica, pur mantenendo una dimensione sessuale, ponendo al centro un'affettività-sessualità diffusa. È il caso classico del voler bene al proprio ragazzo in modo profondo, considerandolo come un compagno di vita nel senso più serio del termine, pur senza provare per lui una fortissima attrazione sessuale. In queste situazioni la sessualità si vive come un completamento del rapporto affettivo e non come un valore di per sé determinante. Si vive una sessualità affettiva di coppia e nello stesso tempo una masturbazione non dedicata al proprio compagno, ma ad un ragazzo impossibile verso il quale ci si sente sessualmente attratti. Il meccanismo che ho descritto è abbastanza comune tra i gay ed ha un valore enorme nel processo di crescita della persona, in quanto allontana da visioni molto schematiche della sessualità. Devo sottolineare che questi rapporti di coppia non sono di serie B rispetto ai rapporti in cui il desiderio sessuale e l'affettività vanno perfettamente d'accordo, ma stanno in rapporto con quelli come la realtà possibile sta alle ipotesi solo teoriche. La più grande paura per un ragazzo gay non è non avere un compagno con cui fare sesso, ma non essere amato, e la coppia possibile risponde proprio al bisogno affettivo in modo serio, ed è proprio per questo che i ragazzi che vivono un rapporto di coppia possibile non sono frustrati, come si potrebbe pensare dall'esterno. È evidente che la visione sessuocentrica dell'affettività è incompatibile con queste situazioni. Questa è la voce del progetto, una voce libera e light.